Come è tutto a posto da mettere a posto. Sono rimbambito. Ricoglionito, non va bene col cavo. Non ho capito, va bene o no? Non va bene. No, non va bene. Non va bene, mi avete tolto il microfono perché ho paura che sia qualcosa attaccato al microfono, forse lì di darlo a destra e a sinistra. Non so, non va bene. No, non c'è radio, non esce di radio. Io ho provato sul mio, c'è una radio. Ho provato sul mio e funziona. Che è lo stesso. C'è gli stessi attacchi, ho guardato anche lo schema dell'apparato a cui l'hai collegato. Quindi probabilmente non arriva a tensione. Mi dice batteria a vedere nel microfono. Che non sia che no, magari non le arriva l'alimentazione. Infatti si è bruciato. Adesso ci provo, hai dato una buona idea. Gappa, c'è anche Natalia. Ma Natalia, quella roba l'hai recuperata, no? Adesso non ce l'ho presente cos'è questa roba. Saluti da Antonio Gianfra. Sì, ciao, mandati saluti Antonio Gixo. Gappa. Quella roba, quella che hai messo dentro quella scatola, quella roba l'hai recuperata poi? Sì, intanto io non ti ho risposto perché non ti sento di radio, basso basso. Va bene, dai, vi saluto, buon proseguimento. Ringraziamenti per Antonio, ciao. Oh Gianfra, adesso io provo a mettere batteria, se non va bene poi ci sentiamo a telefonare con calma, con molta calma, non è una cosa urgente. Ti do il microfono e lo provi col microfono, capito? Guarda lì. Oh! Ma non puoi dare un po' più di radio, vero? Bene, va così. Così già parliamo in italiano, cazzo, non ti sentivo fra un po'. Ti ho detto, quella roba là l'hai recuperata, no? Ancora tutto in officina. Non è che mi puoi chiamare per caso, no? Se non ho capito un cacchio. Cazzo, Natali, quella roba là, non hai capito, quella roba là, capito? Ma quella roba che ti devo dare io? E così va bene, se mi dirai tu, niente, non ci siamo, vabbè, aspetta che ti chiamo. Ok. Ora, chi è? Buonasera, sto provando, mi senti? Sì, ti sento, ciao Tony, mi hai sentito anche a te. Avanti che sta provando. Ho detto buonasera, mi sentite? Sì, che ti ascolto, chi sei? Roberto. Sceriffo sono. Sceriffo. Sceriffo, allora, mi sembra un rapporto che sono sorso, una cosa del genere. C'era una volta uno. Mi l'ho restato sceriffo. Corri, ti ricordi? Aspetta, cosa hai detto? Sceriffo da dove? Ho detto sceriffo da Porto Torre. Mi senti? Allora già sei tu sceriffo di Porto Torre. Alessio da Sassari. Ciao Alessio, sto provando, mi senti? Livello 4 per arrivare. Sei 9:10, ti ascolta anche Torino Kawasaki comunque. Livello 4 ma già ti sente. Ehi, saluto da Kawasaki, sono da parecchio che non lo sento, cazzo. Vabbè che ho mollato io un po' perché il lavoro è tutto. E ciao sceriffo, se mi stai ascoltando. Tutto io salutate se lo stai ascoltando. Sì che lo sento, piano poco ma lo sento. Tu ti senti poco Tony. Che strabo hai mai sceriffo? Già solo un giorno già che non ti sentivo. Io sto cercando uno che mi facci un buco. Pale picco. Che ti faccio un buco pale picco? Non ti come prendere un corso. Ma ce la fai a pale picco? A 39 gradi, vai, che ti chiedo un accidente, Tony. Un coso di buschi, ti posso dire, un escavatore. Con la bella ti fa un buco, poi prendi, ci metti il cemento dentro, lo riempi, fai la gabbia e ci metti quello che vuoi, un palo. Sì, ma chiamo l'escavatore che mi costa un casino, scusa. È piccolino e lo deve fare 50 per 30, non lo deve fare samannolo, però fondo 60 centimetri va bene. Lì ci vorrebbe un coso, uno di quei dei, quanti posso dire, quei motopicchi che vendono là, non alla, naturalmente è fatto piano piano, ma si può anche fare, hai capito? Non molto piccola, come si dice, trappano traslatore, quello che ti fa i buchi e te butta giù il muro della, quella, ma come si chiama la marca, già mi è capito, quello rosso che c'è la punta lunga, quello che sarebbe bene, è vero. Ma ce l'ho io il traslatore, non la giocare Antonio Cristo Braglio, voi mancherete, sapessi tutto il lavoro che ho fatto qua alla recensione, perché era per fare la meccanica e fare la tradetta per me, per mettere perché c'è la macchina, e mi ha saltato tutto, devo comprare la rete, la soffa per chiudere un casino, paletti, cemento, tutto. Mannaggia mia gana, poi bacia, poi mi sono fatto quel basamento tempo fa, che mi hanno chiesto 1.000 euro, va a cagare. Ho preso la rete retrosaldata, sabbia, ghiaia, cemento, me lo sono fatto io, 3x2, alto 12 cm, e poi è arrivata la casetta, me lo sono piazzato. Ah beh, ma lui, se fai pale piccolo, ovi, che ti muove di quello? No, uso il cancellatore, dai. Sì, ma te la pescia dove cazzo l'ho messo, non mi ricordo più. Ma sei due tassellatori, uno a fianco all'altro, sai che basta che scende 50 centimetri e fai il foro che devi fare, non è che devi ammazzare col pale picco, ma sei ma così, con questi gradi qua ci rimani secco, ci rimani. No, ma non le faccio, ma stai scherzando, però sono già tracciato dove va messo, quindi. Perché qua dentro a quanto pare non lo posso più mettere, e qui l'avevo già messo a sedere con la mola, ma chiaramente ho messo la antenna, ma ancora non ci abitano più qua a fianco, quindi. E niente, Antonè, lo devo fare fuori dal mio recinto, e vabbè, metto un blocchetto, quelli che hanno due buchi quadrati, il palo dentro, più saldato dei ferri, più cemento che c'è struzzo, e riempire tutto quanto, capito? Come l'ha fatto l'altro lavoro stesso che c'ho qua dentro. E a livello di terra non trovo di niente. Ehi, per quello ti conviene fare come avevamo fatto noi in pratica. Tanto tempo fa sopra un tetto. Prendi un bidone di tinta. Lo riempio di cemento, il cemento al ghiaia, ci metti un tubo di plastica di quelli che ci stia il palo dentro, poi prendi, una volta che è asciutto ci infili il palo, ci metti i tiranti, una volta che c'hai le, perché l'hai messo sotto terra, già si muove domani già con la ghiaia e cemento. Poi perché il tubo di plastica, scusa Antonio? È la massa a terra, non va di più. Poi tu li metti la massa a terra a fianco, non è che ci vuole, li metti il picchetto fuori, hai capito? Ti fai il buco in pratica in terra, li metti le, come si chiama, il tanto di scendere le cosa da, quello della vernice, diciamo, ci fai poco così, ci metti quello della vernice, li metti un tubo di plastica per poterci infilare il tubo del palo, giusto giusto, poi insomma ci metti ghiaia, cemento eccetera eccetera, dopodiché ci metti il cemento sopra, buon fatto, li metti tre tiranti a metà sì, a metà palo, gli altri tre li metti sopra, li allarghi. Se sei tranquillo, e palo non te ne scende più. Ma ce l'ho già qua, il pozzetto di gestione con il pinchetto, capito? E allaccio lì, sono già arrivato. Ah, sta un balto di tinta, no? Ci vuole questo caso, io ho fatto così, mi sono partendo. Abbiamo piazzato un tubo da 8 metri con un balto di tinta. Poi intorno in pratica avevamo sistemato questa 6 tiranti, non si è mosso più i dipoli per il VHF dell'ATP. Il problema è sollevarlo e imparare a mettercelo dentro quel barattolo di tinta, che era un casino, abbiamo dovuto farlo in quattro perché pesavano bene. A me c'ho il telescopico di pane, capito? Ecco, non c'è problema, ma era sempre piazzata la sura, piazzato, spiazzato, ripiazzato, non c'è problema. adesso no, che c'ho alcuni lavorizi da fare, capito? Mi sono venuto un piccolo impianto elettrico da una signora e domani dovrei finire. Quindi, e poi mi dedicherò un pochettino a questo cavo di antenna. E ma viene venerdì la pala meccanica, mi gira, faccio usare quello di escavatore piccolino e me lo faccio fare così non so chi viene a fasciare io. Non ho chiamato nessuno. Tanto fa due bennate e tutto a posto, non c'è più niente. Io ho quei blocchetti, cazzo, mi convince, amico. Quando lo ripiccio metto il palo dentro e mi ha dato il lucco. Ebbè, novità comunque, ce n'è, Antone. No, io sono un po' che non sto, sto entrando, anche perché c'è mia nipote, capito che... E dormi qui in una cameretta dove c'ho l'apparecchio, quindi non è che c'è tutto questo... E anche le voglia di entrare a baracchino, anche perché più che altro c'è male lei e quindi provvisoria, capito? La sto ospitando qua. Dopodiché mi ripiglio il mio spazio quando appena torno a casa, sì, io mi ripiglio il mio spazio e sono a posto. Ma provvisoriamente c'è lei, quindi non posso andare a entrare in camera sua così come pensavo, come penso io. Mi dava anche fastidio a me e la donna, se è stato un maschio me ne sarebbe fregato ma con le balle. Ah, non era con un vicino prima. La figlia di Giovanna Alessia c'ho qua. Ah. Perché è grande, dai. Hai capito, quindi la sto ospitando qua. Poi fra un po' deve partire in coso e poi diventa nuovo a Sassari e si deve cercare un appartamento per vivere col fidanzato, capito? E ho detto che è grande l'età, la figlia di Giovanna? 22. C'è la signorina anche, ciao. Vabbè, via. E va bene. Niente, sto cercando io su internet qualcosa di bello da prendere. E se avessi c'è ancora sceriffo? Sceriffo! Quello è andato a prendere il cavallo. Sceriffo ando io, cioè, io un giorno sentivo la baracchina, la buona anima. Intanto si riaffaccia qualcuno. No, sentito mio vecchio, ho fatto 5 minuti perché stavate parlando e allora ho fatto, li lasciamo parlare. Ok. Come stai combinando, sceriffo? Sei in pensione? Sono in pensione, ma mi hanno fregato. 47 meno 47 contributi e più 14 anni figurativi. Figurati, quindi ti hanno fregato. E mi hanno fregato, non solo a me, ma a tutti i colleghi che lavoravano con me. Antonè, dimmi se hai lavorato a Fiume Santo per caso. Ma che studio, se hai lavorato a Fiume Santo? Lavoravo lì a Fiume Santo, più lavoravo socialmente utili, hai capito? Portava il muletto di chi? Di 14 anni. Ha lavorato a Fiume Santo, Tony, e poi ha detto che in pratica faceva i lavori socialmente utili. Ho capito, ma portava il muletto a Fiume Santo. Ah sì, ok, portava il muletto a Fiume Santo. Ehi, già mi conosci. Ehi, già lo conosco. Ha detto di sì, già lo conosci, Tony. Ehi, io ero delegato sindacale della UIL, della DP2M. Ha detto che lui era delegato sindacale UIL, DP, UM, così è, Tony, ha detto. OUM DP2M, sì. DP2M. Conoscevano tutti lì a Fiume Santo, mi volevano tutti bene. Non sapevo che c'aveva il baracchino, gà. È bella sceriffo, gà. Bello, bello. Ha riacceso tutto. Al sceriffo. Già è un giorno che gli sparito la circolazione. Meno male c'è ancora l'antenna e il baracchino. Oh, Antonè, quando si avvicinava da noi, gli pisciavo la gomma. E lui, no, che si prende ghiaccia. Ah, gli piscevate la gomma al sceriffo. E lui dice, no, che si prende ghiaccia, tu, fine nera. Vero, sceriffo, dice che tu ti pisciavo la ruota. Sceriffo. Ehia, ma c'è un po' di quel rene, ciò, cazzo, che arrivano forti da fuori qui. E vi sento in mezzo. Vamo, io vi saluto e riprendo più tardi. D'accordo, sceriffo, ci stiamo più tardi. Buon vizi, a dopo. Ciao Antonio, sono Baderazzo, si chiama Antonio. Ciao sceriffo, stai bene, alle prossime. Ciao. tutti versando stanno. Ma ormai che è in pensione adesso. No, sapevo che è tra il baracchino, Sì, era un giorno che io sapevo andare al baracchino, me lo ricordavo come sceriffo al baracchino, tipo l'ottava, infatti dopo, mi è rimasto solamente, come ha detto sceriffo, infatti ho detto, ma le buone cose, lui, sì, allora, sì, tu, gli ho detto, me lo ricordavo, non c'era, gli anni che c'era cosa, entrava, 80, 90, mi ricordo, quindi figurati, mi sembra che c'era anche Intrepido quel periodo di vivo. C'era anche Cazzo Silvestre, il produttore, se c'era Luigito, no ma Luigito, c'era cosa, aspetta, come cavolo si chiama, quella della Baranautica, che era pigliavo la giallina e la pigliavo sempre. E chi, Marietta? No, mi ricordo come si chiama, troppi anni sono passati. Mi ricordo una volta, detto io, la tua sardina andai, guarda sto per rientrare, se mi uscite una cassa di birra, ti sono una cassa di sardina, sono convinendi, aiuto, oh, a te, questa sardina così bella appena pescata, ti giuro, siamo andati in campagna Barbariccia, era arrossita, oh. Ehi, ma prima le sardine costavano una cazzata, se vuoi comprare adesso, lascia perdere. È meglio andare in banca e fare un leasing. È meglio mangiare l'orata adesso di allevamento, che è meglio, perché la sardina è troppo cara. Se farò un conto, se ti ero 50 l'avevo vista, quindi se mi avrà anche un tiro, ma non tennate, la davano a pesce in faccia, mi avrà anche un tiro. Bah. Adesso l'unica cosa che ho visto, la verità, l'altro giorno alla Kobe, che una settimana fa, i zeri a 2 euro, roba che era parecchio, non vedevo. Infatti quando ho telefonato a Simone, ho detto, voi tu i zeri che ci sono, detto, c'era una casa piena, non appena portata, dice no, non mi piace, non torno mai, detto. Poi non c'erano né pizzeri né sardine, però mai allora, i pizzeri e sardine arrivano da fuori, quindi... Allora i zeri già c'erano. Io mi sa che le rosbie, addirittura quelle cassettine piccoline trasparenti in plastica, 3-4 sardine, 3 revisti, ma attaccati al naso. Il pesce se lo fanno pagare adesso, con la questione del gasolio e roba del genere, oramai è aumentato tutto. Capito? Prima costava di meno, ma vabbè, costava anche prima un bel. Le prime sardine te le facevano pagare, dopodiché quando via verso la fine di cioè metà luglio e cose del genere cominciava a diminuire il prezzo. Ma mi sembra che questa crisi la stiamo pagando noi, eh. È l'aumento della luce, è l'aumento del gasolio, è l'aumento della balla che li accompagna. Tutto paghiamo noi. Non puoi usare il condizionatore aria in macchina, adesso si trovano usando con il condizionatore aria acceso, ti trombano, quindi a un certo punto cosa fa uno? Apre i finestrini, due sono le cose, o si tiene il caldo o si tiene il tavolo delle vespe. E questa cosa è moda nuova, io ce l'ho ogni giorno acceso il condizionatore in macchina. La macchina è mia, solo per non fare quello che voglio. Così c'è scritto su, guardati Google. Si ritrovano con il condizionatore aria acceso, c'è la multa, c'è 500 euro, so. E se la paga l'usina, no? Io c'è una roba nuova, non ho mai sentito una cosa del genere. Che macchina mia posso fare quello che voglio io. Posso fumare macchina mia, posso mangiare un panino, posso bermi qualcosa, anche camminando non me ne affutti nulla. E sul condizionatore c'è anche sempre acceso. Poi se loro vogliono schiattare dal caldo, che schiattano pure, la mazza gliene varia. Cosa fa? Ciao. Su Google l'ho guardato ieri avanti ieri, cioè, poi non lo so, se mettono cazzo con le latte, così ho scritto basta che lo guardi anche tu, cosa vuoi ti dica io? Intanto io me lo guardo sempre Google, per sapere le ultime notizie, eccetera, eccetera, anche di Sassari, cosa, roba così. Me lo guardo e me lo leggo. Guarda, se vuoi cercare qualcosa giusto devi guardare la gazzetta, devi guardare. Allora, su Google c'era scritto che trovo con la macchina c'è fermo, con il servizio c'è, faceva la capacità di ma con la macchina fermo, per camminare non fanno niente, ma fermo fanno la capacità di sicuro, ma lei si vuole fare. Ho capito. Allora io me lo leggo tutti i giorni e poi leggo quello che c'è scritto, poi la verità io macchina non ne ho, quindi non so cosa dirti. Io vogliamo sempre a Giappini, anzi e i tram, anzi sono quei tram nuovi dove ci sono come si chiama, quelli che salgono sopra, che si ti beccano senza biglietto, ci hanno come i poliziotti americani, la telecamerina ci hanno, che bello, eh? È bello, avanti, Tonino Kawasaki. Tonino, ciao anche a te. E infatti mi sembrava strano a me che fate la multa con un condizionatore in macchina mia, senti che c'è macchina, ma non è così, perché guarda, a meno che non esce nella carta ufficiale, se esce nella carta ufficiale allora è vero, ma una volta che esce su Google usci, anche io posso scrivere un antico, io lo sapevo tra chi, allora è vero, ma lascia perdere, era mezza poco di cazzate, va, vabbè, oh yeah. Se continua sto caldo, se mi è casinato. Ma da maggio facciamo sto caldo. A circolo sarà luglio, agosto. Piano piano non possiamo come abbiamo passato gli altri. Ma non è che facciamo tutto caldo. Non è che qua sono a 30 gradi, e anche dai cosi dentro sono a 30 gradi. Come siamo troppo cicchi? Ah, io qua dentro ci avrò 18 gradi. Io metto il condizionatore anche di brisi, me lo passo, me lo fresco, oh, sto così bene, guarda. Avere un braccio, ma ma sto riprendendo, cazzo, ui. Cosa vedda, siamo a posto quest'anno, cazzo, tra aumenti, cosa del genere. Sono andato dallo studio, l'altro giorno non c'era manco un uovo, ha sbattuto in terra, uovo, non uovo di pascolo, uovo normale. Oggi sono andato via Milano, ma normale le uova c'erano, e me le ho prese. Ogni tanto non si riforniscono questi, invece che li assegono la roba per strada. Guarda, perché... che gli aumenti non li ha fatti, nessuno li ha fatti, non è il caro della guerra, hanno fatto questo, c'è troppa gente in Italia c'è troppa speculazione, troppa gente ladra, c'ha ragione il tedesco, italiano ladro, ed è vero, c'ha ragione, perché stanno rubando da ogni punto che si può rubare, come vedono che ti entra 10 euro in più, poi 10 euro ti tassano. Poi, che è un'altra cosa, la benzina si è per aumentato, anche se non c'è dalla Russia la benzina, è una minima cosa dalla Russia. La benzina noi la prendiamo dall'Algeria, non hanno preso le mani a aumentare i prezzi. Questo governo l'altro non è venuto avanti, da quando è entrato Draghi, Dragone, ha rotto proprio il bottone. Guarda che quello lì, Draghi è entrato a rovinare l'Italia, guarda che quello, è quello che ha rovinato la Grecia, non è fatta parlare fame. Lo conosciamo. Niente, io cioè devo andare a Kiev e non vi è andato, che mi hanno bombardato in Kiev. Andate in America, a Daruguru, fate scritto, se arriviamo alla guerra per colpa tua il primo a morire sei tu, la città Draghi, va a fa culo. È un problema che è dei cubani, che questa gente non ci va, si nascondo. Io gli ho augurato che ne farava l'aereo andare in America, ma non è parato, peccato che. Anche non mi dare il mio. La colpa di Antonello comunque, per Antonello. Allora. Cazzo, mi sembra che mi compro un laser, me lo piazzo in campagna, vado per qualche aereo, cazzo, fido, prendo e lo butto giù, cazzo. Di buona portata, so è. Ma poi danno lo via sai, prima che intendi la fine, deve star ricciare. E io lo so che... adesso non puoi più scrivere niente, neanche scherzando, manco su Facebook io puoi scrivere una cosa del genere, immagina se si sentono all'apparecchio, cazzo, e minimo me piovono a casa e mi arrestano. Torello, Bobbio, terrorista. E allora, terrorista, c'è uno che si chiama terrorista di cosa, di camionista però è quello. Insomma, la novità non ce n'è, ma io voglio spendere soldi, cazzo, è un ripercepitivo. Cosa ti vuoi comprare? L'altro giorno c'era un Saturneco 130 euro, poi c'era un 140, 300 euro, c'era. Adesso stiamo cominciando a vendere la gente, quindi c'è roba, basta controllare. Antone, paro baracchino, io ho una quindicina di baracchini, prestazione fissa. Non ne vale la pena, fanno via televisore, oh, prendi di cazzate, lascia perdere. Ho due, uno, due moto, due con lo scooterone e un Suzuki 600. Pensa, mi sto prendendo con le Suzuki, già l'hai visto che è bello. Cosa ne posso? Oh, mi tengo lo scooterone, basta. Ah, non so, qualche cosa che potrebbe interessarmi e compareggio senza battercita, capito? Oh, yeah. Sono così per zicchendi, via internet, non trovo niente di novità. Ma ti faccio quasi tutto. Ma questa macchina l'hai comprata, dirai? Io che compro la macchina, c'è ancora il moto. No, io ho anche la macchina, c'ho. E ho comprato una macchina nuova per mio figlio, la foto Fiesta, l'ho compresa. Ah, tuo figlio l'hai comprata. Ma hai detto ti comprate la macchina nuova quando andavi in pensione. Grappa, buonasera a tutti. Ciao, Clara. Ho preferito mio figlio, poverino, perché io sono in pensione. Ma lui va sempre da posata a Nuvola, Nuvola Olbia, e aveva necessità della macchina diesel e gliel'ho comprata, dai. Ho detto, là me la prenderò presso, mi tengo questa qua, mi ha dato la sua Clio, che è abbastanza ottima, ma comunque, pegando dura, e poi me la piglio nuova. Ehi, va bene, investi i soldi, investi... Io non ce li ho buttati, io ho fatto gli investimenti che mi fruttano. Basta con le radio e basta con le macchine, non serve buttare niente. Va bene, dai, sto facendo cosa, ci sentiamo dopo se ci siete. Buonasera a tutti, ciao anche a Franco Vissorso e ciao Antonello. Come sta andando questa 440 che ho ritirato tutta la roba di Natalino? Almeno ho lasciato in santa pace. Come va? Tornata com'era? Va bene, perfetto. Ok, va bene, dai. Mi sono ripreso nuovamente tutto. L'ho lavorata col cuore e l'ho ripresa col cuore. Gli ho restituito tutti i suoi soldi. Non c'è nessun problema, abbiamo riportato tutto a casa, ma non esce più nuda la notte. Allora siamo goduti 30 armadi, giocandoci in Mugareggio, arrivano in Mugarada. KK, ciao Franco Di Sorso. Ciao Claudio, buonasera. Sempre comprando e vendendo. Guarda, a me l'unica cosa che non mi serve è proprio i soldi, era una cortesia che ho fatto. C'avevo questo bellissimo 440 che avevo preso ad un amico perché naturalmente anche a lui ne servono soldi. L'ho venduto a Natalino, però basta, si è stufato e fa bene. C'è troppa gente che le rompe le palle e allora mi ha chiesto la cortesia e ha detto ma stai scherzando, non c'è problema, riportami tutto e ti do i tuoi soldi. E sul culo della Taramaglia, che a me il Taramaglia non mi biasi, non me ne ha fottuta. Io ce l'ho le mie, c'ho 430, c'ho la linea 140, c'ho 920, c'ho 757, sei maggiorati. Va bene, beh, ok. Vi lascio che sto facendo delle cosette importantissime che domani devono venire a piazzarmi delle cose qua a casa e quindi devo preparare della roba. Dai, ci aggiorniamo dopo. Avanti, tu fai girare per me Corix. Ok, ciao Corix. Andrà bene, avanti Pompucci, poi faceva per Franco. Eia, capo. C'era che ci fu il produttore poco fa, Grammy, la buonanima. Antonio, glielo so, ogni tanto lo sento. Non faccio mai in tempo a salutarlo, ma già lo sento, dai. Gappa. Ok, dai che mi metto. Devo preparare questi documenti che devo dare al muratore che devo fare dei lavori e deve fare una domanda in comune, devo fare due coperture fuori nel piazzale per mettere la macchina. Dai. Un attimino già riprendo subito, riprendi fra. Capo, dai, ci sentiamo allora qua. Ci sentiamo. Niente, avanti Tony. Capo. Ma io guarda, mi sono costruito un armadio a muro e ci ho fatto, mi sembra, 6 o 7 ripiane e ci ho messo tutti i baracchini, abili a luce, anche il Galaxy ci ho messo. E sto muovendo questo presidente a 80 canali. Quando mi stufo lo tolgo, lo metto nell'armadio e ne prendo un altro e faccio girare. E cosa vuoi fare? Microfoni, ne ho anche le spalle ci facendo, carne, legno. Ma proprio per non aggiungare, sto lasciando sempre tutto qua perché lo mettere, non c'è più di tanto, dai. Accendo e boom, è arrivata la nuova antenna ancora scatolata, la lascio lì. Quando sarà, con calma, che mi finisco tutti i lavoretti che devo fare qui. E i lavori sto facendo altre clienti, roba elettrica, allora con calma me la metterò la antenna, però va, non a giocare. Ecco, piano piano fare le cose, anche io domenica sto facendo le cose piano piano. Che hai visto? E quindi adesso il 15 comincio a incassare un po' di cosa, ritorno a essere in attivo dopo il 15, così almeno nel caso se qualche cosa me la prendo, avere soldi in più è sempre meglio, ogni mese in contratti, purtroppo glielo sai. Stanno facendo tutto per toglierci i contanti, in modo da andare in nessun posto. Come si fa a dare un ciclo, a bere una birra a casa, qualcosa con posto, ma stai scherzando, manco molto te lo danno. Quindi devi andare, cazzo, chiedere il favore a qualcuno, fai una cosa, dice, vieni con me, ti porto nello spirito, fai 100 euro di spesa, te la pago io e tu mi dai 100 euro di contanti quando siamo in macchina. E così bisogna fare, se no siamo buttiti. Ma non è bello anche così però. Ciao Tore. Allora, questo governo del cazzo, perché lo dico di cazzo che dà, io sono contrario a detto cittadinanza. Sono contrario perché l'ha dato anche a porci e comodi persone, i rumeni, zingari, di tutto, extracomunitari, non va bene, drogati, cazzo non andare a travagliare, non andare, io mi sono fatto il culo una vita da pensione, e c'ho una bella pensione e sono tranquillo, lavorito conto mio me ne faccio sì nero, non me ne ha fatto un cazzo, però ripeto, non vado io a chiedere i soldi al governo per non lavorare, e molti fanno così, cosa cazzo mi ha dato la mattina, a Fagosa, già figlio il rito di cittadinanza, io gioco in casa, non mi ripeto nel manco, ed è creata la più disoccupazione, non solo ce l'ho portato a noi 42 anni i contributi a travagliare, capito, che ha creato già la disoccupazione, dando poi il reddito, digio, non lavora più nessuno, molti si dicono che abitano da una parte all'altra, io conosco molte coppie che si mettono tutti e due a rito di cittadinanza, aiuto dai, no va bene dai, ogni tanto c'è una sciapera un po' che tiro e di cacchio di niente, è un casino. Avanti fra. C'hai ragione, sono d'accordo con te, Tony, sono d'accordo con te. Ne volevo fuori questo reddito, perché c'è molta gente che per colpa del reddito non ci va neanche, non è che si alza per andare a lavorare. Ormai, e ce lo chiami, molta gente, perché ho visto cose qua, sentite con le mie orecchie, qualcuno, e niente, lo ha chiamato a lavorare, gli ha detto, dice che non gli conviene, gli basta quello che gli saranno lo Stato. Vabbè, è così. Per me non va bene, non va, perché il reddito di cittadinanza ha rovinato l'Italia, ha rovinato, non l'ha aggiustata, già ha aiutato un po' di persone, chi proprio non ne aveva niente, quello è giusto, ma come stavi dicendo tu, tutti i drogati ne hanno approfittato, non c'è lavoro, non c'è quello per prendere il reddito di cittadinanza, ma se non hai mai lavorato una linea in vita doia, come se vai a pagare un reddito di cittadinanza, questo non ho capito, e poi cosa succede? Gli chiama il comune e si rifiutano pure. Ma è purtroppo così. Io voglio, quando sono le votazioni l'altro anno, io voto alle persone che hanno deciso di eliminare questo cazzo di voto di cittadinanza. Perché Di Maio, lo sappiamo, l'ha messo per avere voti. E ovvio che cazzo di giorno di noi ce lo votiamo. La carità. Poi, non parliamo di governo, perché il governo Letta, il PD specialmente, come i Draghi, che vanno a dire bisogna dare le armi all'Ucraina, cioè tu non vuoi la pace, tu vuoi che la guerra continua, allora sei un pezzo di merda, tu vuoi morto, l'avrei mai impiccato, l'avrei, ma stiamo scherzando, cazzo, ma tu ti puoi permettere di mettere contro la Russia, ma manco l'Italia, non solo l'Ucraina, ma manco l'Italia, lo sappiamo che il presidente che c'è dell'Ucraina era un pagliaccio, perché era un comico, l'avevi fatto presidente, ma cazzo, chi ti dice no che io ero che peggio, vedi a 5 Stelle, Grillo così era, un comico, un pagliaccio, no guarda, sono ammaricato, guarda, boh, proprio fa caridare. Se le mie luci si ammazzano tutti i gatti. Ma io sono solo questo, che la dica ci incazza, veramente, Putin. Schiaccia dei bottoni, signori miei, ciao, a chi le radiazioni si crema pure a noi. Questa è tutta colpa del governo di merda che abbiamo. Sì, è vero Tony, è proprio così. Questi sono pezzi di merda, sono, perché le armi non le doveva dare a nessuno, non ce l'hanno. E da voi andiamo a ravvamme noi, andiamo. Ma infatti, io se pur che ne ravvamme, piano, io se pur che ne ravvamme. Perché piano piano non ci basta, la pensione che ci hanno dato a noi, vedrai che piano piano non ci basta più, perché ci stanno dando, ci stanno aumentando tutto in tasso, se tasso, tasso su, vedrai cosa succede un po' di anni. Ma dice che stanno chiamando adesso le persone che mi derrito a fare travagliare, e se ci rifiutano glielo tolgo. Ma che sia, la vostra buona. Io lavorerò solo bisogno che hanno veramente bisogno. Donne, per esempio, 55 o 60 anni, quella cazzo la manda a travagliare. A quella glielo dai se non c'è lavoro, non c'è un mantenimento. E che cavolo, un invalido, un pensionato che piglia pochissimo, ma dagli i soldi. Ma non dagli ai ragazzi, tu cosa, ma dov'è? 25 anni, 30 anni, e dove eri prima? Ti sei andato via a tornare? Non è che c'è che davanti? No, è là, te ritorno, te le do, gira le palle. Adesso la casa in affitto, così, con là, fa pigliare di là, entro la piscina giù, e come le conosco molte persone. Questo è truffare. No signora, non va bene. Io voto per togliere lo sorriso cittadinanza, perché è una presa per il culo. Allora, governo di merda, anziché buttare tutti questi miliardi, aumenti la pensione a persone che veramente hanno bisogno. Basta, io sono così. Non sono forse fra, perché forse anche Giuseppe Travagliato, usa nel gioco. E a me vedere uno che gli dà il governo il suo destino senza fare nulla, mi rompe, mi dà fastidio. Sì, ma anch'io la penso come te, perché probabile che sia per quello, perché io sempre lavorato, non mi è mai mancato il lavoro e ho avuto sempre tutto, ma è per quello che non posso vedere il fatto di questo reddito di cittadinanza. Però per me è una cavolata più grossa che ha fatto il governo italiano. E ce ne sono anche qua in frequenza, qualche persona che risiede una parte, si è coiovato e piglia di cittadinanza e vive come un'altra persona che, ma guarda, è meglio questo titolo, anche le dai, anche la dimmi, cazzo vado al comune e comincio a fare Celentano. Ma va bene così, no, la prende per il culo, che poi su delle trattano per comprarsi apparati, non va bene. Avanti Antonè. Ormai io sono anziano, sono andato all'ufficio di collocamento per fare l'aggiornamento, mi ha dato il foglio, no? Io appartengo agli invalidi civili, non sai che tu leggere, tanto 88, non mi ricordo quale diavolo è, e mi ha detto, dice, caro mio, mi ha detto, dice, ormai l'età che c'hai, dice, anche se tu dovessero chiamare la Cagliari non ti piglia nessuno, mi ha detto, stai tranquillo, state a casa, goditela e basta, mi ha detto, perché con la patologia che c'hai e con l'invalidità che c'hai, cosa vuoi fare? E tu, cosa voglio fare? L'unica cosa per fare è te dare il culo la notte, gli ho detto. E comunque a me io non ce l'ho con te, ce lo sai. Io a te ti ho dato una bella pensione di a me minimo 1.000 euro, intanto che riesci a vivere, a campare bene, tranquillo. Oh, per le patologie che c'hai, quello che c'hai, non sei una persona da poter lavorare oggi che oggi, no. E alle persone che sono giovani, che vogliono travagliare, a quella gliela avrei tolta. No, allora va a lavorare e continua a prendere il diritto. Se no non ti ha bucato, perché così. Però qua c'è gente, per carità, no, va bene. E ci sono molte cose sbagliate, purtroppo. E andare avanti e fra. Capo, tu pensa, con tutta questa gente che prende a Sassari, parlo di Sassari, parlo di Sorso, parlo di tutti i paesi anche, no? Come sarebbero state le città belle pulite con questa gente che l'avrei messo a lavorare, con questo reddito di cittadinanza, anche se gli fai fare 2 ore al giorno. E poi questo Di Maio all'inizio ha detto che con il reddito di cittadinanza li chiamavo a lavorare, dopo la terza volta glielo toglieva. E sono passati anni. Non mi ricordo quando è nato, se succedesse solo 2-3 anni fa. Ma non ho mai chiamato nessuno, adesso se qualcuno sta svegliando, dire mi chiamano per dare un posto di lavoro, che ancora non ci vediamo da io, vabbè, tutte chiacchiere e palle che dicono. È un casino troiaio. Purtroppo noi parliamo così, giustamente perché ci abbiamo fatto subito il culo. A noi soldi non ci ha dato nessuno, mi grazie, non hai compreso, abbiamo subito travagliato, è stato preso la mattina, caldo, freddo e è andato a lavorare. E allora? Cosa? E tutti gli aggiacchi ce li abbiamo presi. E lei viene al disco, a quella, quell'altra, sono stato a fare un po' di voce, io faccio la biglia in culo. E poi vedete questi bei giovanotti, belli, cazzo che non si rimise mai a mangiare, si alzano tardi, fare il padrone di Lambergo, vai vai, no? Andate bene, avanti Antonio, avanti. E comunque era 2018 che c'era il reddito di cittadinanza, e l'ho pigliato quell'anno lì, prima c'era il re, c'era. Erano 640 euro. E addirittura mi sono fatto il lavoro socialmente utile, era tre volte a settimana per tre ore, immaginati, usare il cespugliatore, raccogliere erba e cose del genere, poi venivano i due ragazzi, facevo solo la presenza, dopo 5 minuti, tornando a prendere la birra, amici, ci vediamo dopo, lo volevi solamente a primo del mese. Andava e si ritirava 300 euro senza fare un cazzo. E io con gli ore, ragazzi, facevo il lavoro insieme agli altri. Beh, è così, dai. Ha ragione anche Franco, giustamente, queste persone che prendono i soldi senza fare niente, avrebbero pulito la città, forse era la cosa più bella del mondo. E invece no, abbiamo la città piena di buche, ci sono anche quella sotto freddo a sacchetti che la vendono. Avrebbe messo queste persone mentre i pozzi che abbiamo, i buchi. Lì di Roma, e chissà se come te, è tutta buchi, ma che dai. Lo dici molto Lungabo e lo Zembito, lo uscite dalle Sassari, Puttino se lo veglia, chi l'ha votato non lo so. C'è già stato qua e non ha mai fatto nulla, e l'ha detto il matto, beh, se la piglia di culo qua. Vabbè, è inutile, tanto ci facciamo un salto creativo, tanto la cosa andata così e buh, ma se mi è prevista, e quando mi esce la poletta come sto facendo, me lo posso segnito e buh, tanto quando l'ho dentro le case io, mica magattali. E c'è la biglia luce, avanti fra. E come farà qualcuno che prende la legge di cittadinanza, oltre che si prende una bella cifra di reddito, magari quello lavora a nero e ci prende un altro stipendio. Ma io c'ho questo, io sono un tipo che poi sono troppo onesto fra. Quando compro il materiale, con lo scontrino glielo do alla signora, guardi, questo spesso. Boh. Manodopera, una cazzata, perché sono persone, la maggior parte che conosco, e non le faccio i prezzi alti. Lasciamo perdere, dai, che c'è persona che, per carità, no, no. Infatti è così, allora ci vuoi fare, Tony. Dai, io mi allontano un attimino, che devo fare una cosa, devo fare. Ma ci sentiamo dopo, magari, se ci siete ancora. Avanti... Antonello. Sì, Antonello. Fra, come ti arrivo la sosta? Tu sei un segnale di 8, Radio 5. E l'antenna è messa male, ciò. Sto usando TM1000 per attestare un po'. Ok, già va bene, dai. Ehi, la sosta, ci arrivo, Fra. Buonasera. Buonasera anche a Torino. Ehi, ciao. 7, tu sei. Tony, a porta muta sì, 7, però modulati a 8. Invece... mi è sembrato Luca quello lì, mi è sembrato, non ho capito chi era, è un segnale di 7, Radio 5. Ehi Arappa, buonasera, no, Salvirio sono, Salvirio, sempre qua coordinate a Monterosello. Ciao Salvirio. Ciao Salvirio, non ti avevo riconosciuto. Ok, dai, buon proseguo, buon tutto. Ehi Arappa. Salve mio. Pupuglia. Pupuzzi si chiama. L'ho chiamato l'altro giorno e mi sono lamentato evidentemente. Il tuo pugliare te lo sei messo in vendita. Non ti piace più. Ecco, ti ha preso il lineare, te lo sei messo in vendita, ha detto torna. Non ti piace più quel tipo di lineare. Troppo gaglio il fendi, non chi è tu, Antone. Capito, io l'ho visto come c'era la stazione, mi fa caldo e... ne metto con un MOSFET. Infatti, quanto adesso è meglio la bottiglia di birra. Con il Gianfranco. Sammy, e non ti muto, non so, un ventilatore di giro con del generatore? No, niente, la cameretina, questa qui, c'è un mobile, no, che ha uno sportellone, c'è tutto dentro, è chiuso a lucchetto, ci sono che hanno i bisini e cose, fate il casino. E quando scalda questa marmolina mi scalda le orecchie anche a me qua. Ma ci vuole un bel ventilatore per andare bene. Come ti sta arrivando a te, tu? Aspetta, per vedere. Provami avanti. Vado a vedere. 1, 2, 3, 1, 2, 3, se la bevina fa caffè, cambio, passo, vendo, compro e scambio. Dei 9.15 da Radio Bomba. Meno francese, su, meno francese, su, la intendi? Però devi capire, se che io non te ne ha capotata, messa male. Sto usando il TM1000 per accordarlo un pochettino. Prega, chi è avanti, avanti. Avanti, avanti. Dai, sì, ho fatto Pasquale qui, sera. Buonasera, buonasera Pascal, Pascal. Che divisione ti trovi in Francia? La tua divisione. Ok, sei italiano, italiano? Sì, sì, avanti per l'Italia, l'operatore Simon qua. Avanti, con la buonasera. Ok, Simon. Bravo, bravo. E se ne arriva il mogo di Nes compresso. Allora lui è l'altro. Ciao, amico della Francia. Una farina da Sassari da questa parte mi arrivi bene, sei a 9.10 e 5. Avanti tu, lo senti tu, sì, la France. Sì, non lo sento, però è la lingua francese proprio, non so neanche se mi sentono da me. Abbassiamo la missa dell'isola del Sardegna in Italia, non mi sento, oh, ce l'ho anche messa male. C'è uno che esce che si è battuto così, grazie. Oh, Iuia. Avanti, salvemino. Attenzione, mon ami, attenzione, attenzione, mon ami. Si ascolta ancora la ville di Sassari. L'operatore Simon. Che ci ascolta? Che ti cuti? Vabbè, un grazie su un bruciaio. Bella mano, mi hai detto, che ti cool. No, come ti dia, non ti appiero drago, te ne metti. I come muto, mi come banana. Chiamalo il coso, cioè. Qualche giorno che lo chiamiamo a Piero, scendiamo giù, a io Piero, togli il palo fuori, metti l'antenna cacciare, te la mettiamo sopra, te la mettiamo e non rompere le balle. E chi è? Chi Piero? Piero Drago, da c'è la Firenze 2 che non c'era in piazza, l'ho trovato a 3M, ma no a coso, ma amico mi ha detto prova di la Firenze 2 e non le vuoi pulire. Sì, vorrei pensare una boomerang, una cosa del genere. È arrivato la boomerang, ha detto dovete arrivare perché c'è uno che arriva alla porta mola, la verità, da terzo pettine. Però con la Firenze 2, se il terreno è suo, che cazzo deve frega, no? Capito? Non c'è, non è che no, le balle avvicinate, no? Non è come essere in un condominio. E poi se lui giustamente si mette la Firenze 2 gli do qualcosa di pesante anch'io. E così esce più forte. Appunto per quello, non gli costa niente. Pensare se mette il palo, mette la finestra, si trova là sotto, c'è quella rotellina rossa, è fatta, e va dove vuole. Io ce n'è uno bello pesante, uno piccolino, vabbè, ma quello pesante mi sa me lo vedo tanto bene. Non mi piace, così una corrente. Sempre a manuale? Yes. Ero già il vivo 2001? Yes, 2001. Le valvole tutte in terzo? Certo, non ha giù preso. Venga, pagava. Ero giù c'è correnti. Se lo cagli. Ma poca pure. Beh, qui 500 volte già li tira, 600 li tira. Cappa. Ah mio, se trovo chi lo vuole, 200 euro glielo sto regalando. 200 euro è un buon prezzo, a voglia. Ti ho pagato quello tassistolizzato 200. Figurati. Se mi dai anche un ventilatore così grande te lo compro io. No, non mi va di speculare sopra la persona, chi lo vuole. A me non pensa la fazia, è dentro l'armadio. Forse già nel kiwi. Chissà che quando metterò l'antenna nuova me lo metterò anch'io qua. Un fai pompatere, però. Sapete, ho detto, ci sembra l'avventura, quella grande. sai quello che complicherebbe, scusa, quel condizionatore ci mette l'acqua dentro, ci mette il ghiaccio dal frigorifero, ha voglia che ti rinfresca vicino al lineare. Cosa stavo dicendo, allora, ieri dalla GBC a comprare 2 PL, però con i macchinita non ce li aveva, li ho presi in Teflon, che è lo spezzone del baracchino, adesso a Gigetto l'ho messo in 213 lo spezzone, invece in 58. A proposito, la radio di meglio va a confronto a quello che sentivi prima, è più forte o più, ma lascia perdere solo rauco, sono senza voce. No, io stai scendo bene, a voglia, sei perfetto. E poi è forte, dai. Io non è manco, ho le spalle del 500, da negro nero, si diricava, cazzo si chiama, riesce forte ma stessi. No, non lo voglio fare gli attacchi, la verità, non sono troppo stanco, e fai quello, e fai quell'altro, e fai quell'altro, cioè, ogni tanto viene una ruba enormica. Adesso avevo finito di fare quel basamento, no, devo passare la parameccanica, la matta di rivermi mi ha trattato tutto, tutto da capo ho fatto, perché di te, gara. Quando sei in campagna capita così, già lo sai, io sono qui nel palazzo, e quindi sono a posto. A posto, per costruire, da quando è salito il capocondomino che c'era prima, questo vivendo come si deve, prima cazzo ogni volta si metteva a rompere le balle. Quando ci faccio il palpetto, tu mi stai installando l'antenna, ma che cosa cazzo ho detto, devo chiedere per me a te, non ho capito. Tu ci ho detto non ci devi salire perché tanto è condominiale. Allora, dato che è condominiale, ho detto. Quando sai quello che ci ha detto per la palabra, mi ha spaccato le tegole, che cazzo le paga? Io ho detto il condominio. Non le paga le tue, allora va a far culo, ho detto vai. E gli le mie palle. Allora che fare il tuo lingua, questo BVA? Che cosa? Dammi il BVA! E abbassa, sei troppo forte da comprendo, cazzo. E tu fammelo provare il TX, questo BV 2001. Ok, quanto vuoi. Ma allora antenna, ti ho detto l'altra volta, che ce l'ho in scatola. Che antenna è? Una Ringo, chiusa in scatola, nuova, comprata 5 mesi fa. Se tu hai detto di sì, tu ancora ci devo pensare che non te la metti più. Tu dici così, se me l'avevi già presa da quando me l'hai detto. No, la Ringo no. No, mia moglie entra in doccia, dobbiamo fare accompagnare la mia cognacchina a Dulma. Ehi, ce l'ho chiusa in scatola, non mi serve quella. In campagna mi ho ripiazzato la Mantova, pure se è mezzo incidentata, però già funziona. Quanto ne vuoi di questa Ringo? Sono in buono, devo giubare da 70 euro con la spedizione. Ti ho comuni 50 euro, usami una futi. Dimmi, dove sei che sto venendo anche adesso a prendermela? E adesso mi viene male, perché quando sono sceso con la Mantova ci ho sceso anche la Ringo. Ed è dentro casa è chiusa in scatola. Come scendo a prendere, domani mattina scendo a prendere, allora. E domani mattina scusa un lavoro una scena sto facendo. Elettrico, ascolta. E beh, più tardi non fa. Devo scendere in campagna, capito, giù a Giacumona. Non lo so, perché se mia moglie ha partito qualche giorno fa, ci abbiamo un pupo piccolino in macchina, no. Scendo domani e poi ci sentiamo domani sera. Se Antonello c'ha il tuo numero, mi faccio dare il numero di telefono. Ce l'ha Antonello, ce l'ha. Fatelo dare. Dagli ragione. Io te lo do, non c'è problema per quello. Quando vuoi. Già non c'è problema, già. Allora, quell'antenna, aspetta un attimino. Ce ne faccio lo scopo, c'è il coso delle istruzioni, tutto quanto. Dovrei avere c'è il tagliando quando mi è arrivata la spedizione, mi sembra che era sbagliata a febbraio, boh. Ma ho provato a montarla qua nel terrazzo e non ci sono riuscito a. E allora nulla, l'ho richiusa e mi sento la scatola. Così non ci contavi? No, la Ringo, la Lem non è la grande, è l'altra, come si chiama? La mezz'onda, lo sai, boh. È la mezz'onda. Ringo, cioè, non è da 5 ottavi, però già devi tararla, però già funziona bene, non è che funziona male. Se la metti in campagna è perfetta, se la metti in città come l'ha messa lui, è attaccata quasi al muro, un cazzo usciva, ma con la Mantova non sono l'altra. No, qua il suono è forte questo, no, qua non c'è possibilità di farlo uscire perché c'è il muro vicino al coso, se tu la piatti sul tetto non sei a posto. Ci sono, ho visto un radioamatore dei video su YouTube e collega dappertutto con la Ringo. Dai, lascio un attimino qua, è acceso che entro, dammi una sciacquata veloce. Ok, dai, sapete. Portala su e poi domani ci sentiamo. Salve, allora domani mattina te la fate sentire così ti appassa e ti dà subito. Netto l'ha venuto di nuovo via a Torino e c'avevo il telefono chiuso perché era scarico, cazzo, è venuto a casa, figurati, mi ha fatto capare aiuto, c'avevo il Saturneco e cosa, scegliti quello che vuoi Tony, e ci ha piato Netto come apparecchio. Poi Saturneco l'avevo venduto dopo e l'avevo riparato, messo a posto, era, c'era pieno, quindi la voglia, ci ha fatto la bene. Vendo, chi è che vende Biccio? Oppure mi chiama, dalle nuove telefonie, a sapere che c'è almeno, mi chiama. Chi è che vende? Compro, vendo, chi è? Donino, si vuole comprare la Ringo di Saverio, domani a tira. Una buona, compra. Bisogna fare girare i soldi, ragazzi. Io sono già una tela che mi è arrivata. Guarda, la piazza appunto, non ti cura. Io sono una dove cicca, più quella che mi compra. Tre antenne mi piazza, andate. È un aggaggio che vede, vedi che l'FM vede a Mattelli, cioè questo l'FM non ho capito niente. Mi devi dire francese, segnale 9 arriva, la Francia in FM. E tu a te, 9 a te, io con la salama che sono davanti, è 9:20. L'unico che si salva a Torino che è in basso, almeno lo sente più basso, lo sente. A me mi arriva basso. Se ti dico no, perché non è puro superato. Serato. Accidenti, voi spostate all'11. Non ci capisce una mazza, cioè questo è un FM che è Fendi Strike. Ho passato all'11. Oh yeah, sembra che ci sia il miele sul 10 qua. Sono rotto le balle, tra tedeschi, francesi, ma davvero, è una cosa allucinante, ogni santa sera la stessa cosa. Oh yeah. Il lettere, c'è il lettere sul canale 10, bobo, cazzo, tutto quello che fai. Tu figurati, i primi a attivare il canale 10 siamo stati io già nel doppio room, lui viaggiava alla Porta Torre con un portatile, tanti anni fa. Ci andiamo sul 20, no, non mi piace, centrobanda, andiamo a 10. Cazzo, dal giorno abbiamo durato sempre nel canale 10, minchia, ma sempre QRM e propagazione a 1000. Cifra tonda. Vuol dire che piace un bel, cosa vuoi ti dica? Vero, perché è un canale intermedio, capito? Sul 20 si è a centrobanda, così, qua va benissimo, però allucinante. Io sto sempre su 14, a fare l'amore. Tu stavi su 14 a rompere le palle all'Esco Radio. A parte quella, anche a quelli di Alghero che li massacravo le balle, ogni strada che li davo, con 600 watt mi arrivi. Veramente, eh? Muori bellino, con te che non vuoi 22 del K, isso Maria Gara, ma dove siete? È lì vicino a te, mi apri la finestra, siamo vicini. Il bellissimo ti facciamo schiacciare, cazzo. Guerra avrà, gli ho detto. Non scappi da qua, gli ho detto. E poi quando mi sono trasferito qua, peggio ancora. Sì, li facevo neri, li facevo lì al Ghero. Grazie, allucinante.